Radio 24 Reportage. Il Novecento in Europa. La guerra del generale Jaruzelski, di Roberto Antonini, per la Radio Svizzera Italiana. Nel 1943 il conflitto mondiale subisce una svolta. La disfatta delle truppe del Terzo Reich nel terribile inverno di Stalingrado dà avvio all'offensiva antitedesca su diversi fronti. All'inizio dell'estate gli alleati sbarcano in Sicilia. Il 25 luglio il generale Badoglio sostituisce Mussolini, che viene destituito. La resistenza antinazista si organizza ovunque, ma in Polonia si consuma la soluzione finale, decisa dai tedeschi, verosimilmente l'anno precedente alla conferenza di Wannsee. Treblinka, Majdanek, Auschwitz, Birkenau, nomi tetri che ricordano le camere a gas, i forni crematori. Sono i campi di sterminio nei quali vengono uccisi milioni di ebrei, comunisti, zingari, oppositori. Alla fine della guerra, la Polonia distrutta conterà 5 milioni di morti, l'Unione Sovietica 27 milioni. In Berlino znalazłem się dopiero kilka dni po tym, kiedy już wracaliśmy do kraju. Io sono giunto a Berlino qualche giorno dopo la liberazione. Si percepiva il senso della vittoria, della fine della tragedia. Sentivamo che avevamo sconfitto i nazisti, riscattando le vittime che avevano fatto a Varsavia. La nostra vittoria era quella della giustizia, finalmente giunta. Ale z drugiej strony i współczucie dla tych zwykłych Niemców, a zwłaszcza to zostały kobiety, dzieci, starcy. Ma ho visto anche l'altro aspetto. La realtà della popolazione locale, dei civili tedeschi, donne e bambini che vivevano in situazione di povertà estrema. Ho provato empatia anche per loro. È questo sentimento ambivalente, non univoco, che mi lega a quelle immagini. Generale, lei ha parlato della liberazione di un campo di concentramento, se ho capito bene, Sachsenhausen. Io volevo chiederle questo, una domanda che forse non avrà mai una risposta definitiva, ma dalla sua testimonianza, voi, lei in particolare, dei campi di quello che succedeva a Treblinka, a Sobibor, ad Auschwitz, in quegli anni, cioè i campi di sterminio, lo sterminio degli ebrei e non solo degli ebrei, lei cosa sapeva e cosa sapevate in Polonia? W armii jeszcze wówczas tej świadomości nie mieliśmy pełnej. All'interno dell'esercito sapevamo poco di quanto veramente succedeva, del genocidio. Certo, eravamo al corrente del fatto che era in atto un genocidio, che nei campi venivano uccisi polacchi, ebrei, comunisti. Tuttavia, la vera dimensione del massacro non ci era molto chiara. Diciamo che non eravamo coscienti. Ricevevamo delle informazioni, ma frammentate e non sempre chiare. Pierwszym takim obozem, który zobaczyłem, był Majdanek koło Lublina. Il primo campo di sterminio che ho visto era Majdanek, vicino a Lublino. Treblinka non l'ho visto, e neppure Auschwitz, che non si trova sul percorso che abbiamo seguito per spingerci fino a Berlino. Ma bisogna capire che quando è in corso una guerra, e questo vale per tutte le guerre, la gente perde la consapevolezza della reale situazione, della brutalità, delle atrocità, perché si è sempre vicini alla morte. La morte, il pericolo di morire, sono in agguato. Per capire le dimensioni di quanto veramente succede, c'è bisogno di un po' di distanza, di un po' di anni. La reale crudeltà, brutalità, possono essere messe a fuoco solo con la lucidità, che in guerra viene persa. E questo vale per i campi di sterminio. Il nostro obiettivo primario era la liberazione della Polonia, la sconfitta di Hitler. Ma volevamo anche salvare quei milioni di polacchi che vivevano sotto l'occupazione tedesca e che dunque erano minacciati dallo sterminio. Але втеді я ще не потрапив того так у місцевіч поза Саксенхаузен. Come le ho già detto, io ho partecipato alla liberazione di Sachsenhausen, che non era un campo di sterminio, e dove furono deportate persone di varie nazionalità. Dunque, qualcosa si poteva immaginare, ma le informazioni dei campi di sterminio giungevano comunque lentamente, erano spezzettate. Col passare degli anni si capì la reale ampiezza del genocidio. Il processo di Norimberga, per esempio, contribuì moltissimo a fare chiarezza. Dostarczył bardzo wiele materiału. Appena due giorni dopo l'invasione della Polonia, il 19 settembre 1939, il commissario di primo grado della sicurezza di Stato sovietica, Beria, riunisce il consiglio dell'NKVD, la polizia politica, ordinando l'apertura dei campi di detenzione per i prigionieri polacchi. Nel periodo dal 3 aprile al 19 maggio 1940, oltre 22.000 prigionieri di guerra vennero assassinati. Circa 6.000 provenivano dal campo di Ostashkov, circa 4.000 da Starobielsk, circa 4.500 da Kozielsk e circa 7.000 dalle parti occidentali di Ucraina e Bielorussia. L'eccidio rimase nascosto per anni. Il vero destino dei prigionieri scomparsi rimase mistero, fino a quando la Wehrmacht scoprì le fosse comuni di oltre 4.000 ufficiali polacchi nella foresta di Katyn, nell'attuale Bielorussia. Per decenni i sovietici attribuirono ai nazisti la responsabilità del massacro. Si deve attendere fino al 1990 per conoscere la verità ufficiale. Io tutti sono stato con degressi, pano to nie pyta, ale ona może być interesująca. A jak to wyglądało ze strony rosyjskiej, sowieckiej? Anche se lei non mi ha posto esplicitamente questa domanda, possiamo chiederci cosa sapevamo di quanto succedeva dall'altra parte. Sappiamo ora del massacro di Katyn, sappiamo ora di altri lager sovietici dove milioni di russi furono arrestati e assassinati. Allora, noi sapevamo che lo stalinismo era crudele e immaginavamo che molte persone venissero lasciate morire di fame, ma non sapevamo cosa succedeva realmente. Mio padre era ritornato dal lager completamente sfinito e morì subito dopo. Ma mio padre non mi ha mai parlato di assassini perpetrati dai russi, dai sovietici. Dunque, ai nostri occhi, solo i tedeschi erano capaci di sterminare le persone, non i sovietici. Anche se sapevamo che molta gente moriva di fame e di stenti. Głodzono, ciężka praca. I kiedy pojawiła się informacja o Katyniu... Molte cose che dopo furono chiare, come Katyn, per noi non lo erano. L'Armata Rossa era quella che ci permise di sconfiggere i nazisti e di riconquistare la libertà. E poi non dimentichi la forza della propaganda, le notizie manipolate durante la guerra. Ecco perché eravamo convinti, ad esempio, che il massacro di Katyn fosse stato perpetrato dai tedeschi. Eravamo convinti che i russi non avrebbero mai fatto una cosa del genere. Solo più tardi subentrarono altre informazioni che smentirono quanto noi credevamo fosse successo. Pojawienie się wciąż nowych dowodów pozwoliło zobaczyć prawdę. Per i nostri ascoltatori è importante ricordare che a Katyn furono fucilati migliaia di ufficiali polacchi. Inizialmente, appunto, la colpa fu addebitata ai tedeschi e poi si seppe che furono invece i sovietici. Generale Jaruzelski, lei non ha mai avuto un dubbio su Katyn nel dopoguerra, quando era chiaro comunque che Katyn si trovava in una zona dove agiva l'Armata Rossa e non l'esercito hitleriano? Як уж вспомнявам, віза о тим, що є збродня. La responsabilità dei russi apparve progressivamente con il passare degli anni. E questo grazie alle informazioni che venivano diffuse da Radio Europa Libera o dalla Chiesa, ma anche da pubblicazioni clandestine. Cominciò pian piano ad apparire sempre meno evidente che la colpa fosse dei tedeschi. Man mano che il tempo passava, cresceva la necessità di fare chiarezza. Quando diventai ministro della difesa, mi espressi così di fronte al mio omologo russo, il maresciallo Greshko. Sì, noi crediamo che siano stati i tedeschi, perché è vero che era territorio russo, ma sotto occupazione tedesca. Dunque era verosimile che fossero stati i tedeschi. Però, aggiunsi, ci giungono informazioni strane che smentiscono questa convinzione. Dobbiamo fare qualcosa per contrastare queste informazioni, queste voci. Pomóżcie nam, dajcie dowody dodatkowe poza tą komisją Burdenki, która powstała w 40. Gli dissi che oltre la commissione di Burdenko attiva dal 1943 bisognava fare qualcosa d'altro. Va bene, mi rispose, indagheremo per trovare altre prove. Quando lo rividi, gli chiesi a che punto era e mi rispose: no, non ci sono ulteriori prove, ma quelle che già abbiamo indicano che sono stati i tedeschi. Da quel giorno maturai la convinzione che la realtà fosse un'altra e che la responsabilità fosse dei russi. Purtroppo per anni questa verità fu sottaciuta. I libri continuavano a contenere la versione falsa. Lo dico con rancore e anche con vergogna. Certo, perché io facevo parte della dirigenza polacca. Ma bisogna anche capire che per noi era vitale mantenere stabili rapporti con la Russia, perché solo questa certezza era una garanzia che i nostri confini occidentali, quelli dell'Oder, sarebbero stati protetti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.